Complimenti per la trasmissione, vi ascolto tutti i giorni, anche di notte. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Un grande saluto a chi ci ascolta anche di notte, come avete sentito. Giorgio Druca, il nostro autore, Giovanni Melchiori in redazione, Andrea Roccabelli in regia. Ci sono sacchi e sacchi, ci sono sacchi di carote a Trigoria, poi sentiamo e ne parliamo. C'è Arrigo Sacchi invece che dice che dal punto di vista numerico, quantitativo e forse qualitativo, perché dice Higuain è l'unico fenomeno in questa rosa, Napoli inferiore a Milan, Inter, Juventus e Roma. Non sono così d'accordo, ma comunque Mancini, che con Sacchi non si prende poi benissimo, non si è mai preso poi così bene, 800240024, si difende. Sacchi non è il depositario della verità, io non lo sono, tu non lo sei, nessuno di noi lo è. Uno deve anche essere un po' realista, cioè se io alleno Van Basten, Gullit, Rijkaard, Ancelotti, Donadoni, Paresi, Maldini, Costa Curta, insomma se io ho una squadra che sto costruendo e devo giocare con una squadra che in quel momento è più forte di me e non sono in grado di poterla mettere sotto a livello di gioco, perché io sto costruendo una squadra e gioco contro una che è già forte, costruita e che ha delle certezze, cose che non abbiamo. Insomma, è da fessi andare a... per che cosa? Beh, questa non è male. Cosa ne dite? 800240024. Poi ci sono i sacchi di carote su Trigoria a 50 kg. Buon appetito, conigli. Sabatini come risponde? Le carote non entrano nel nostro gioco, non mi pare che siano. Noi dobbiamo sopportare le critiche quando ce le meritiamo. Noi siamo usciti da Barcellona con l'idea di poter tornare a casa tranquillamente, sapevamo tutti di non aver fatto la nostra miglior partita e sapevamo tutti che avremmo dovuto far meglio per noi stessi e per la nostra gente. Dunque, questo è Sabatini. C'è infine Mihajlovic, nervoso. Ieri sera ha battuto Crotone ai supplementari, il Milan passa al turno di Coppa Italia, affronterà la Sampdoria, eccetera eccetera eccetera. Chiaramente non è stata una grande magica notte. È stato anche chiesto a Mihajlovic: ma cosa dici dei tifosi che sono andati via al 90esimo sull'1-1 prima dei supplementari? Risposta: avranno avuto freddo. Cos'altro dice Mihajlovic? Chi ha deciso e quando è stato deciso di convocare questi due giocatori, Montolivo e Bonaventura? Che giorno è oggi? Oggi è martedì. Abbiamo giocato? Martedì. No, abbiamo giocato... È una sua decisione stata comunque, giusto? È stata una sua decisione oggi? E di chi? Non ho capito. Di chi potrebbe essere decisione se non mia? Perfetto. Di chi potrebbe essere decisione? Le chiedo anche questo. No, ma rispondimi, di chi potrebbe essere può essere decisione? Sua, sicuramente lei fa la... Può essere mia. Potrebbe essere... No, dubbi. E di chi può essere? Dubbi. Sul fatto che allora mi deve chiedere queste cose, di chi sapere. Può essere decisione, di chi può essere, secondo lei, di chi potrebbe essere. Allora non mi devi chiedere questa cosa qua, perché sennò. Insomma, non ha torto, o gli chiede, hai deciso tu o ha deciso Berlusconi, oppure la domanda è un po' tendenziosa. Pierluigi Pardo, ciao, sai chi c'è? Pier? Eccoci qua. Sai chi c'è in linea con noi? Non vi sento, eccoci, adesso vi sento. Chi c'è in linea? Chi c'è? Emiliano Mondonico. Oh, il mondo. Ciao, mister. Vi saluto carissimamente. Dove vi sei? Dico, sono in un ristorante di grandissima qualità, ma chiaramente tipo osteria. Infatti sto parlando, ecco, un po' sottovoce. E non avete dei sottofondi come altre volte. Vi devo dire che le carote allungano la vista. Fanno bene alla vista, ecco, mentre invece altri frutti fanno diventare ciechi. Perciò vivono le carote. Frutti? 50 kg sono frutti, frutti o maneggi. Quando ci dicevano da bambini stai attento che diventi cieco? Stai alludendo a questo? Era quando andavi nel maneggio a cavalcare i cavalli. No. 50 kg sono troppi. 50 kg sono troppi? Mi sa di sì. anche per la vista. No, ma dipende, cioè i miei conigli, no, adesso non ne ho più di conigli, ne ho uno, ma è un preferito, perché cosa succede? Che la gente tiene in casa gli animali, poi dopo quando arriva l'estate non sanno cosa fare e mi dicono: non potresti tenermelo tanto che vado in vacanza? Va benissimo, e mandato tra tante cose anche il coniglio, ma che bravissimo proprio, però dopo possibile che sono in ferie ancora, non sono mai venuti a riprenderlo. Sono più tornati, eh? E il coniglio è lì, poverino, che mi guarda, io ogni tanto gli do una carota, gli do quella cicoria, ha il suo mangime, però vedo che è triste, però cosa ne so, io male, sono ancora in vacanza, sono andati via a luglio e sono ancora in vacanza. Sì. O se no mi lasciano lì, sanno che stanno bene, che vivono nella suite, nel pollaio suite, perché io ho anche il pollaio suite dove ci privé, sono, insomma, il pollaio privé, dopo, come dopo dicono i calciatori. Per i conigli non gliene frega niente del privé, i conigli, devo dirvi. Coniglio vabbè, va bene dappertutto, va bene, parliamo di cose serie. Va bene, allora aspetta un attimo, veniamoci per il traffico, torniamo subito. Tutti convocati. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Tutti convocati. Dunque torniamo, mentre c'è chi scrive che al coniglio serve la gabbia rotonda, cioè Emiliano Mondonico in linea, cioè Pierluigi Pardo naturalmente. A me i conigli, il discorso sembrava serissimo, ma magari volevi parlare di qualcos'altro, Pardo? No, io volevo parlare dell'allenatore in tuta in testa alla classifica, se Mondonico è felice in questa sorta, diciamo, anche di sociologia degli allenatori, no? Nel vedere il figlio di un ex operaio dell'Italia, bravissimo, che fino a qualche mese fa era... uno sconosciuto quasi per un certo tipo di calcio in testa alla classifica. Cioè fai un discorso come direbbe Cruciani o come direbbe Berlusconi, comunista, ho capito. Sì, è un po' comunista, sì. Vetero comunista. Cioè, progressista, va bene, più moderno. Emiliano, hai sentito? Vabbè, ma allenatore si nasce. E perciò possono nascere da tutte le parti. Guarda, allenatore non si diventa. Non è che tu prendi il libro ho scritto l'allenatore dove c'è su giorno 1 fai questo, giorno 2 fai questo, giorno 3 fai questo, cioè guarda che l'allenatore non si impara, o ci nasci o sei dentro, o se no ciccia. Cioè io e Agroppi Aldo al super corso di Coverciano, lui è arrivato ultimo, io sono arrivato penultimo. L'avete fatto insieme? L'abbiamo fatto insieme, c'era anche Arrigo Sacchi. Ma perché Zeman. Vi siete divertiti un casino? No, ma c'era Sacchi e Zeman, e quando io vedevo Sacchi giocare in una maniera e Zeman giocare in un'altra, e io mi chiedevo: ma io ho fatto lo stesso corso di questi? Perché loro hanno capito una cosa, io ho capito un'altra. Capisci? Perché lì ci hanno detto tutta una cosa sola. E vabbè, però lì è quel discorso che allenatore si nasce. Guarda che siamo arrivati ultimi, perché per quanto riguarda la medicina sportiva, la domanda era per tutti grande e piccola circolazione, e perciò tutti noi eravamo preparati sulla grande o piccola così circolazione. Agroppi è entrato e cosa ha detto? A me non me ne frega niente perché c'ho il medico in campo. Al che è scoppiato tutto, no? Basta, no, qui il piede qui. Dopo Agroppi entro io. E cosa hai detto? E che cosa mi dicono? Dimmi quanti sono i globuli rossi, i globuli bianchi e tutto il resto. Mi ha detto: ma scusa, io so cos'è la grande e la piccola circolazione, che cosa non so di tutto il resto. E allora, ole! Zero in classifica anche per me. Colpa di Agroppi, sì, che salutiamo. È tanto per dirgli che se non nasce allenatore, non c'è niente che te lo può far diventare. Sì, tu puoi copiare, clonare, far finta di raccontare le favole quando vedi una partita. Ma secondo te Sacchi racconta favole? E poi ti chiedo anche: ma perché oggi, parlando, leggendo, negli umori sembra che l'Inter abbia vinto la partita di Napoli, quando è invece il Napoli ad aver preso i 3 punti e ad essere primo in classifica? Prima la busta 1, Sacchi, la domanda su Sacchi. Sa chi ha avuto l'intuizione di questa linea difensiva, ha avuto l'intuizione di questo fuorigioco. Ha avuto l'intuizione di cambiare un po' quelle che erano le vicissitudini del calcio italiano. Ha avuto l'abilità di avere a disposizione dei grandi giocatori e perciò di rivoluzionare un po' quelle che erano le storie del calcio. Io vi dirò che allora la storia del calcio era portiere, terzino, mediano, mezzala, attaccante. Con Sacchi era palla lunga nella loro metà campo e tutti andare a aggredire nella loro metà campo, soprattutto andare a aggredire quei giocatori che erano più scarsi, e perciò quando il portiere la dava al terzino che era il più scarso di tutti, ecco l'attacco di chi di dovere rubava palla e faceva contropiede nella loro metà campo. Questa era una delle filosofie di Arrigo, che però bisogna dirgli bravissimo, perché era il mio compagno di tennis a Coverciano. Proprio. Invece di mangiare, lui mi dice: Emiliano, andiamo a giocare a tennis. Vabbè. Andiamo a giocare a tennis, però io ho fame. E io che cosa facevo? Mi facevo portare un panino col prosciutto, e siccome io giocavo col pallonetto, perché sai, noi italianisti, ma che rovescio, diritto, lobe e compagnia bella, pallonetto. Cioè il pallonetto con la palla che non scendeva più, ma perché? Perché io tra un pallonello e l'altro mi mangiavo il panino e lui si incazzava perché lui impostato bene, diritto, rovescio, sai, era proprio perfetto. Io come la buttava tum in alto il pallonetto, il famoso, a mezzo metro, famoso pallettaro, e intanto un paio di morse al panino. Io ero il pallettaro, ma perché dovevo mangiare il panino? Che avessi, perché se no, che avessi, lui invece ti calavano gli zuccheri. Poi dopo succede che viene preso dalla Primavera della Fiorentina, fa un contratto, e allora arriva alla, noi ci trovavamo lunedì sera, martedì quando incominciava il supercorso, e io arrivo di qui di là: no, sai Emiliano, dobbiamo stare attento perché mi ha preso la Fiorentina. Ma che cavolo, mi ha preso la Fiorentina, abbiamo giocato a tennis fino a ieri ridendo e scherzando, adesso non possiamo più farlo, no, perché sai mi osserva, e vabbè, e io ho perso un compagno di tennis, ma ho ritrovato quattro compagni di tavola. Ma che non è male. Ecco, aspetta un attimo, fammi sentire anche Pierluigi, su così ho due pareri, il tuo che sta per arrivare e quello di Pardo, perché la domanda è: perché l'umore oggi dice che, cioè sembra che l'Inter abbia vinto a Napoli, il Napoli abbia sia stato in qualche modo ridimensionato, è una cosa che a me non torna, Pardo. No, anche a me non torna, e fanno bene quelli che sottolineano, insomma, gli scontri diretti vanno prima di tutto vinti, no? Come i derby, quelle partite che sono importantissime perché ti cambiano l'umore, quindi è nettamente meglio vincerlo che perderlo. Nel mio caso, ti dico la verità, come io mi sono speso molto sul Napoli da due mesi, sono rimasto sorpreso perché il Napoli mi sembrava una macchina perfetta, e lo era di fatto, lo è stata gli ultimi due mesi. Nell'ultima mezz'ora ho visto la squadra improvvisamente in affanno con l'uomo in più, però può essere anche ma una di prima vincere, contro seconda, ma ci mancherebbe altro, ma infatti secondo me, cioè, devono godere a Napoli e devono rammaricarsi a Milano, questo è il punto di partenza. Detto questo, io credo che l'Inter, che era stata così osteggiata e compresa per tutta una serie di vittorie, diciamo più di efficienza che di bellezza, credo che possa aver da quella mezz'ora finale trovato dell'autostima, ma è ovvio che insomma debba essere più felice Sarri di Mancini. Non credo ci siano dubbi, ma mi sorprendono i dubbi della pubblica opinione, come dicono quelli bravi, Emiliano. La pubblica opinione, cioè, dice che bisogna saper vincere. Quando non la pubblica, la mia pubblica opinione, certo, dice che bisogna, nel calcio bisogna saper vincere. Non è vero, bisogna saper perdere, come dice la canzonetta, bisogna saper vincere. E in questo momento l'unica squadra che sa vincere è Napoli, è la Juventus, che tratta la vittoria come una cosa normale. Cioè non è che la vittoria è un miracolo, non è che la vittoria è un trionfo, la vittoria fa parte del calcio. Il Napoli ha dimostrato nel primo tempo di essere una squadra che sa vincere, nell'ultima mezz'ora di essere una squadra che non sa vincere. L'Inter è il contrario. E quindi Morale ha vinto moralmente l'Inter? No, l'Inter è il contrario, è andato in campo considerandosi una squadra che non sa vincere, perché ha fatto sicuramente un'ora abbastanza risibile sotto tutti i punti di vista, poi nell'ultima mezz'ora invece ha trovato quella voglia di saper vincere. Però si sta parlando di un'ora per il Napoli e di mezz'ora per l'Inter. Di tre punti per il Napoli e di zero per l'Inter. Di due squadre che secondo me potranno avere dei problemi quando si giocherà per vincere e la vittoria verrà considerata un fatto normale. Non un momento di trionfo, un momento di chissà quale euforia. Bisogna considerare la vittoria un fatto normale, naturale, per vincere lo scudetto, sì. Altrimenti vincerà la solita. Ascolta Mondo, toglimi un'ultima curiosità al volo, poi ti lascio alla tavola che è molto più allettante. No, siamo già arrivati al dolce, non sono uno che gli piace il dolce, aspetto anch'io, solo guarda, il caffè corretto. Anch'io, guarda, no, il caffè a me non arriva anche se lo ordino alla regia, però anch'io non sono un fan del dolce. No, dimmi un'ultima cosa al volo, che è questa. Allora, sei in panchina. Hai un giocatore ammonito ingiustamente, questo entra, come sto parlando di Nagatomo ovviamente, becca il rosso, ti incazzi con l'arbitro o col giocatore? O con tutti e due? Io mi incazzo col giocatore, perché vedendo anche, perché tu non devi neanche dare all'avversario la possibilità di metterti in difficoltà, perché bisogna conoscere gli avversari. Se sai che gli avversari accentuano, e questo lo sanno anche gli arbitri, stai attento, ma cosa gli scivoli davanti con le due ginocchia, e questo qui viene, cioè non può saltarti via, o non fa niente per saltarti via. Cioè, io diciamo che per questo motivo sono dalla parte dell'arbitro, ed è chiaro che il giocatore deve essere attento, cioè l'ammonizione. Quando un arbitro ti ammonisce, cioè l'ammonizione è l'anticamera dell'espulsione, perché se tu non fai un fallo da espulsione è chiaro che l'arbitro ti regarduisce, basta. Certo, ma quando l'arbitro ti ammonisce ti dice occhio, che se fai un altro fallo, è chiaro, sai già che sia giusta o sbagliata la prima sanzione, su quello si può aprire un altro capitolo, però se tu sai che hai un giallo tra capo e collo, stai attento a come giochi, no? Hai raggiunto il limite, e perciò devi stare attento, perché se fai un altro fallo l'arbitro non può far finta di niente. Sì. Perché altrimenti avrebbe fatto finta di niente sul precedente. Quando l'arbitro ti ammonisce, ti dice sei nell'anticamera dell'espulsione. Chiaro, stai attenti, ma stai attento, ma cosa entri a metà campo? Comunque dico che ci vuole tanto poco a capire la psicologia degli arbitri. E sarebbe bene durante la settimana, oltre che vedere i filmati degli avversari, rendersi anche conto com'è l'arbitro, come l'arbitro si comporta in campo. Certo. Se è un arbitro che arbitra all'inglese, dove sanno che non fanno apposta, perciò no, bisogna capire, perciò anche il metro, no? Il metro lo capisce all'inizio, ti dà un giallo su quello, quindi ti fai un'idea del metro e a quello ti adegui i parametri. Grazie mister. Che nessuno dice, ciao. L'arbitro è così. Certo. Si parte già 1-0. Ma dopo è facile, dopo è utile. Grazie Mondo. Buon caffè. Buon pomeriggio a tutti, bevo il caffè corretto con un po' di anice, anche alla vostra salute. Grazie mister, anche alla nostra salute, capito Pierluigi? Sì, però poi Orsato è un arbitro sempre bravissimo in generale, dal punto di vista del rendimento, un arbitro di grande livello, però sappiamo che insomma è un arbitro che si fa rispettare, che non è un arbitro da questo punto di vista che usa molto la mediazione, il compromesso. È un arbitro che se decide una cosa la decide e non torna indietro. No, ma devi capisci il metro, sì. Magari si può parlare anche di quella di Mancini. C'è un ascoltatore che scrive su WhatsApp: io mi incazzo con l'allenatore, va sostituito prima del danno, è Giovanni da Brescia. Questo magari è un po' eccessivo, cioè sostituire il giocatore dopo che ha preso il giallo, però è una considerazione che ci può pure stare. Allora, ci fermiamo per la borsa. Claudio da Ascoli Piceno, Raul da Modena sono già in linea, 800240024, state con noi, parliamo di Napoli, di carote, di tutto quello che volete. Bene, molto bene. Il Trap apprezza, lo sentite? Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Invesco, per i tuoi risparmi, investi con noi. Vi presenta Tutti convocati. città. Lo scudetto. Il Napoli è dichiaratamente candidato allo scudetto. È inutile fare questa umiltà finta. Il Napoli è dichiaratamente candidato allo scudetto, visto che al momento è l'unica squadra italiana che esprime il calcio. Gli altri esprimono l'anticalcio. La vergogna è che in Italia i media continuano a esaltare l'anticalcio. Vinceremo lo scudetto quest'anno, è l'anno nostro, questo è l'anno nostro. Il PV de Wayne, che spettacolo, mamma mia! Grande partita, un po' di fortuna che a noi mancava da parecchio e quindi comunque una bellissima partita, grande Napoli. È grande, grande, quest'anno ce la facciamo. Niente scaramanzia. Niente, secco, secco. Il Napoli ha vinto sempre con merito, interisti la dovete finire, non meritate di vincere lo scudetto. Vabbè, Vox Populi, Vox Populi da Napoli, 800-24-0024 per la vostra Vox. Ma potete anche lasciarci messaggi su WhatsApp, 349-238-6666. Se volete, da oggi poi li scarichiamo e li sentiamo con calma. Pierluigi Pardo è con noi, come Claudio da Ascoli Piceno e Raul da Modena. Claudio, buongiorno. Sì, buongiorno Carlo. Buongiorno. Grazie dell'opportunità. Grazie a te. Innanzitutto un saluto al grande Emiliano, perché ci manca molto su qualche panchina. Intanto lo sentiamo parlare, che non è male. Sì, veramente. Niente, io volevo ritornare un attimo a Napoli-Inter, perché secondo me voi che siete molto bravi, veramente equilibrati, però avete stigmatizzato pochissimo la reazione di Mancini. Cioè Mancini ha fatto una reazione da un ragazzino viziato, no? Quando poi bisognava anche ricordargli che in Inter-Atalanta Calvarese ha invertito al 94esimo la rimessa laterale e scaturito il gol. Non ho visto Reia fare questo tipo di reazione. Stessa cosa per Chievo-Inter. Filipe Melo, 3 falli, tutti e 3 da espulsione, non è mai stato ammonito e non ho visto Maran intervenire. Rigore di Ranocchia su destro a Bologna, anche qui nessuna reazione da parte del mister del Bologna. Cioè questa persona, secondo me, non merita di stare nel mondo del calcio. Sono tanti quelli che invece scendono in campo per difendere la loro squadra. No, ma fa parte di simpatia e antipatia. Allora, io sono d'accordo con il ragionamento teso, no? Che chiaramente ci si lamenta quando ci sono delle cose a proprio torto e si fa i vaghi quando invece le cose sono a proprio favore. E sicuramente, se guardiamo la stagione, c'è anche Carpi, dove sicuramente seconda giornata il Carpi si era molto lamentato. Va bene, ma sì, detto questo, ma possiamo fare episodi pro e contro, come lo fa Mourinho, poi l'ha fatto anche Sardi a Genova, per esempio, dopo Genova-Napoli. Ma io non sono a Genova. Fa parte, poi sui modi posso essere d'accordo, cioè io credo che nel momento nel quale Mancini con De Marco in televisione abbia fatto quel ragionamento lì, non mi è piaciuto molto, perché insomma, malignare, dare la sensazione che pensi che ci sia disonestà intellettuale, preconcetta da parte di altri, mi sembra assurdo. Però in quella famosa intemerata c'è anche da dire che io capisco l'adrenalina, ecco, secondo me è l'adrenalina della partita, perché poi in realtà si può discutere una vita su quella, si può discutere una vita su quell'espulsione. Sicuramente ribadisco, il primo giallo è un giallo stretto, è un giallo che si poteva non dare, che probabilmente si doveva non dare. Detto questo, una volta che sei stato ammonito, poi Nagatomo fa un fallo, come diceva giustamente il mister, che è una che devi evitare, ma che devi fosse evitare. Successo il contrario, fosse successo il contrario, cioè questo il secondo questo cartellino giallo, che fosse stato il primo, allora è un'altra storia, c'era da arrabbiarsi. Così naturalmente. È un po' ingenuità. Io ripeto, capisco perfettamente Mancini, ma poi, capisco la Maretta, ma poi però io capisco anche che ognuno tira l'acqua al suo mulino. L'ha fatto Mancini, l'ha fatto Mourinho come ricordavi tu, l'ha fatto Sarri, l'ha fatto Garcia, lo fanno un po' tutti, quindi magari certe volte compresi anche gli allenatori che l'ascoltatore ha menzionato in altre occasioni. Raul, buongiorno. Buongiorno, grazie per l'intervento. Grazie. No, volevo dire, io non voglio arrivare a tanto su Mancini, però l'argomento Io, a me viene da ridere quando lui si permette di parlare di Sacchi, cioè, bisognerebbe che si sciacquasse la bocca, ma Sacchi ha vinto in tutte le categorie. Lui invece ha sempre avuto delle squadre dove hanno speso milioni e milioni di euro, compreso il giocatore svizzero che ha preso l'anno scorso, quest'anno ha svenduto, che l'ha voluto a tutti i costi, e poi l'ha, esatto, e poi dopo l'ha svenduto come una patatina pie. Cioè, ma cosa sta dicendo? Sa che ha vinto dappertutto, in tutte le categorie, e ha portato delle innovazioni che lui non sa neanche cosa voglia dire. Però non possiamo dire che Mancini non abbia vinto, ma cosa, ha vinto. Cosa ha vinto? Qualche campionato l'ha vinto anche Roberto Mancini, che pure vista l'anagrafe ha ancora tempo per vincere. Se poi diciamo che in Europa non ha ancora raccolto nulla, allora siamo tutti d'accordo e qui parlano i risultati. Però insomma, se sa che dice una cosa, io trovo che Mancini abbia il diritto di rispondere, per essere un allenatore giovane, ancora giovane, è sicuramente un allenatore vincente Mancini, non ci sono grandi dubbi. Poi si può discutere magari sul fatto che i primi successi all'Inter siano arrivati in anni oggettivamente particolari, non rientro nella vicenda Calciopoli, anche perché non ci ho mai capito tanto, sì. Però sicuramente sono stati anni nei quali l'Inter ha legittimamente approfittato, diciamo, di un vuoto di potere di alcune grandi tradizionali che avevano altri problemi in quegli anni lì. Però Mancini comunque ha vinto quei campionati, è tornato a vincere con il Manchester City, che cosa che non capitava da tantissimi anni. Insomma, io credo che nessuno possa discutere il profilo dell'allenatore. È un allenatore bravo, bravissimo, e l'altro giorno ha avuto un'uscita sicuramente così infelice, però quello che ti dico, se Sacchi dice una cosa con i dovuti modi, come peraltro ha fatto, mi sembra anche legittimo che quell'altro risponda con i dovuti modi, come peraltro ha fatto. Quindi sì, tra l'altro, non trovo niente di scandaloso da fare inchinarsi e dire sua maestà mi genufletto. Io credo se conosco un po' Sacchi e la sua filosofia di calcio, se c'è stata una volta in cui l'Inter gli è piaciuta è stata esatto con il Napoli, come a tutti noi, nel senso che l'altra sera, questo poi sono d'accordo, non va esasperato, perché sennò sembra che abbia vinto l'Inter e perso il Napoli, invece ha vinto il Napoli e ha perso l'Inter. Però nel momento nel quale si dice che il Napoli ha vinto una grande partita importantissima, a sottolineare che l'Inter in quella mezz'ora finale 10 contro 11 ha dato la sensazione di essere una squadra tosta, forte, e che ha sfiorato il 2-2, questo credo che sia indiscutibile. Sono sicuro che è stata una bella dimostrazione di quel gioco collettivo che proprio Sacchi piace. Certo, questo è indubbio, ma lo dice la cronaca, lo dice il film della partita. Allora ci fermiamo per il traffico, c'è già Antonio Giordano del Corriere dello Sport in linea. Oggi vedo su molti giornali scene di giubilo e di festa. Prima abbiamo sentito qualche tifoso del Napoli. A proposito, il primo che ha parlato, dire che tutte le altre a parte Napoli giocano un anticalcio mi sembra un po' fuori dalla realtà, guardarsi ad esempio a Fiorentina, ma sono altri discorsi che affronteremo dopo. Traffico. Tutti convocati. Nuova Audi A4, scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Tutti convocati. Ciao Antonio Giordano dal Core Sport. Ciao a voi tutti. Ciao, come stai? Un abbraccio a te, a Pardo. Grazie. Come stai? Mi difendo, sto al sole di Castelvolturno. Bella vita che fai, Antonio mio. Ragazzi. Anche tu. Io invece sto a Milano. Lascia stare, una Tormina, l'altra storia di Castelvolturno. Posso fare un po' come Mancini e lamentarmi un pochino, no? Pardo, io non sono autorizzato. Gli spieghiamo come va la vita, glielo spieghiamo. Senti, Antonio. Io sono per il Mediterraneo, sto benissimo a Milano, ci vivo tanti anni, sto da Dio, un sacco di gente che mi piace, però insomma, quando si riesce ad avere qualche grado in più, francamente. Sì, magari non la nebbia che c'era stamattina, ma stiamo rubando, il lavoro al meteo. Antonio, invece, vedo comparire statue di presepe a grandezza naturale di Sarri, vedo scene di giubilo, tripudio, gente che mangia, gente che festeggia e gente che dice: anche a Napoli, alla faccia della scaramanzia, quest'anno lo vinciamo noi. Non c'è un po' troppa euforia? È il momento di potersi sbilanciare, nel senso che non è detto che lo vinca il Napoli, no, assolutamente. Ma esiste il rischio euforia? Ma credo di no. Credo che esista la possibilità che l'euforia faccia bene, perché dopo 25 anni, onestamente, sentivi anche un po' la mancanza di vivere nel lusso. certo. Su questo hai ragione. Ragazzi, abbasso la miseria, godiamoci il primato in classifica, hai ragione tu, eh. No, ma infatti io condivido. Quello che mi domando è se questo clima a Napoli possa fare bene oppure no, o possa fare bene magari il cazziatone che Sarri avrà fatto ai giocatori, come aveva promesso. Sì, ma sai, credo che poi nelle segrete stanze quello che accada torni per essere un elemento produttivo. L'elemento esterno, devo dire la verità, tra le tante cose che ho sentito, che lunedì sera è stata una grande serata anche di partecipazione collettiva. C'è un San Paolo come quasi non si era mai visto, forse nelle notti di Champions, nei grandi avvenimenti, qual era onestamente Napoli-Inter, ma soprattutto anche, devo dire, una partecipazione molto seria da parte del pubblico. L'escandescenza appartiene al dopo, cioè al momento in cui il Napoli vince una partita. Ah, sì, ma è anche, meravigliosa, è anche giusta. Ma non ho mai visto nessuno stadio dopo una vittoria del genere stare zitto. Posso dirti, in questi anni c'è un po' di frequentazioni napoletane. Io credo che questo sia un po' uno stereotipo falso, nel senso che poi mi sembra, io no, per quello che ho visto un ambiente meno scaramantico e meno irrazionale di come viene dipinto appunto dagli stereotipi. Ho visto, cioè, quindi secondo me è chiaro che l'euforia c'è, non potrebbe essere altrimenti in un momento come questo, però è un'euforia direi fisiologica, insomma, Napoli in terza alla classifica, che deve fare? E sul discorso delle piccole gioie parziali, io sono un grande fautore della cosa, nel senso, questo è proprio un tema filosofico, no? Se uno non debba mai illudersi di qualcosa, se non sei contento oggi quando vai nella vita è il vecchio concetto anche un po' mocciano, quindi insomma adesso non è che è proprio è Kierkegaard, però del viaggio, no? Che comunque indipendentemente da se raggiungerai un obiettivo, cioè il fatto che lo stai vivendo, che senti vivo, che partecipi a questa emozione, già è già tutto, forse alla fine è la cosa che ti rimarrà più impressa, certo, al viaggio, è ovvio che è la gioia del viaggio, ogni tanto della vita è bello vincere. Ma dimmi una cosa, Pierluigi, dimmi una cosa, secondo te, così la condividiamo con Antonio Giordano, non è che quegli ultimi 20 minuti con Sarri che diceva ci parlo io, non è che quegli ultimi 20 minuti di sofferenza con l'Inter possano paradossalmente aver fatto bene da questo punto di vista a Napoli? Io penso di sì, anche perché è stato perfetto da questo punto di vista, nel senso che il Napoli ha imparato la paura, cosa che negli ultimi 2 mesi non aveva praticamente mai avuto, ha imparato che si può subire gol, che ci sono gli avversari che ti possono anche mettere sotto per 20 minuti, ma lei è andata bene, quindi l'ha imparato, è come quando rischi un incidente stradale ma ti salvi, il giorno dopo probabilmente prendi qualche precauzione in più, però intanto l'incidente stradale non c'è stato, scusa questa drammatica metafora, però è un po' questo il concetto secondo me, cioè il Napoli ha sperimentato che può essere rischioso montarsi la testa o pensare che siano finite le difficoltà. Le difficoltà sono lunghissime, questa è una stagione lunghissima, lo sai, io mi sono lanciato un paio di mesi fa perché credo a questa squadra e mi sembra fortissima, però è ovvio che le variabili sono tante, ce n'è sono una tante. In questo momento della quale si parla poco, che cioè? Sono Caglietone e Mertens. Beh, Caglietone e Mertens, secondo me, Mertens e Gabbiadini l'altro giorno, secondo me, in quella situazione lì, sul 2-1, con l'uomo in più, con l'Inter che inevitabilmente ha dovuto sbilanciarsi e l'ha fatto legittimamente molto bene, potevano essere due armi molto importanti dal punto di vista della freschezza, e sono mancati. Sì, anche perché c'è poi quell'altro tema che gira ad Antonio Giordano, mentre già vi invito a pensare a una classifica tra i migliori centravanti in questo momento al mondo, dove mettete Higuain, provate a dirmelo, a scrivermelo, 800 24 00 24, se volete parlare, 349-238-6666 se volete invece scrivere. Ecco, il punto che molti sottolineano è invece questo: Mertens e Gabbiadini sono delle certezze, Antonio, però anche il solito Sacchi dice attenzione, perché l'unico vero, grande, fuori classe, trascinatore, giocatore imprescindibile del Napoli è quello che tu conosci e si chiama Gonzalo. Però mi sembra onestamente limitativo, sottolineato che sembra che Higuain faccia quasi un altro sport in certi momenti. Se andiamo a rivedere l'azione del primo gol, lui prende il pallone e lo ruba praticamente a Calleone, pazzesco, al difensore, è come se uno venisse per strada, mi fermasse e mi dicesse dammi la macchina, insomma, dice qua faccio il comando tutto io. E poi c'è anche da dire che nel Napoli esiste un portiere che sta facendo la differenza, che ha contribuito a fare la differenza, esiste una squadra nella sua costruzione che è molto forte, esiste l'identità di gioco. E devo dire, Pirma Pardo ha sottolineato un aspetto che non è irrilevante. La prima riserva del Napoli è Mertens, per gli esterni. La prima riserva del Napoli come centravanti è Gabbiadini. E fin lì ci siamo. Cioè siamo a 11 più 2 e in questa squadra, mi permetto di aggiungere ancora due nomi che forse passeranno, come dire, in sordina, ma Ghoulam nel proprio ruolo, Ghoulam nel proprio ruolo è uno degli esterni più forti che esistono secondo me in circolazione. E Allan è l'uomo che ti ha cambiato una squadra, perché ha dimostrato di saper crescere all'interno di una struttura e di una complessità di squadra che è differente da quella che precedentemente viveva, senza subire alcun danno, anzi aggiungendo grande profitto. Sì. Poi è chiaro, il fuoriclasse è Higuain, ma certo, il fuoriclasse è Reina. Anche. Fuori classe Reina e direi che giocatore di grande livello. Direi che Giorgini in questo momento è un giocatore imprescindibile. Ho dimenticato Insigne, spero che non me ne voglia. No, perché anche perché io continuo a pensare che in questo momento sia ormai dall'inizio della stagione il miglior giocatore italiano, è sempre un disco rotto. Grazie Antonio. Ragazzi, un abbraccio. Ciao, saluti a Tormina dal sole di Castel Volturno. Beh, grazie, grazie. Salutiamo anche Pardo da un altro così, sole. È finita così? Finita così. No, rimani con noi. Ah, devo andare. Devi andare. Ah, sono 3-5 già. Si è fatto, il ragione, tempo vola. Hai ragione anche tu. Il tempo vola a tutti i convocati. Pierino, ci sentiamo domani alle 2, no, dopo il GR delle 2. Ma con voi ci sentiamo dopo questo GR che sta per arrivare. E il primo a parlare sarà Luca da Torino. 800 24 0024, numero verde. Luca, stia lì. Buona giornata. Tutti convocati. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS. E in video su radio24.it e su rds.it. Il segnale orario vi è offerto da... Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Tutti convocati. Oggi nella cucina di Siamo Donne prepareremo una torta di carote, una golosa merenda per i bambini e ottima per un tè con le amiche. Ci serviranno delle carote, delle mandorle che poi ridurremo in farina, dello zucchero, delle uova, un poco di farina, del lievito e un pizzico di sale. Adesso riduciamo le mandorle. Mi piace tantissimo la torta di carote, chissà quanti ne possono mangiare in questi giorni. A Trigoria, Luca Torino, buongiorno, grazie. Grazie a lei, buongiorno. Grazie per la convocazione. D'accordo, no, parlare... Luca, d'accordo con questa classifica sui grandi attaccanti del momento? Uno, primo Suarez, secondo Higuain, terzo Lewandowski. Beh, sì, si possono invertire secondo me le tre posizioni, però sì. Ibra giù dal podio. Pubblici. Ibra giù dal podio, quindi? Ma giù dal podio perché comunque Ibrahimovic secondo me la sua carriera l'ha fatta, un grandissimo campione, però questi sono il futuro. Ibrahimovic comunque più o meno alla fine secondo me. Sì. Dica, voleva parlare di cosa? No, io volevo criticare Pardo in qualità di rappresentante di media, sempre per il post partita di Napoli-Inter. Ma più che altro a me la cosa che mi ha dato parecchio fastidio di Mancini, e premetto che non mi è mai stato simpatico, gran giocatore ma non mi è mai piaciuto come persona, è che lui comunque ha dato dei disonesti a una redazione, ha detto statevene a casa e nessuno si è permesso di dirgli ma lei come si permette, cioè tutto lì. Poi capisco, cioè sono convinto che se lo stesso discorso l'avesse fatto Gasperini, per dirne uno, non sarebbero rimasti così zitti. Ma sì, può essere condivisibile, Luca. Adesso Pierluigi non è presente, d'altra parte non c'entrava nulla con quel dopo partita. Certamente Mancini non si è comportato in maniera elegante, sono d'accordo. Poi possiamo parlare, come ha fatto lui, di adrenalina, possiamo parlare di altre cose, però dirà come dire, a un altro, a un corrispettivo, a uno che ti sta intervistando, a uno che dice la sua, vai a casa, non è stato il massimo dell'eleganza. A un interlocutore, ecco, questa era la parola. Armando, buongiorno. Buongiorno, signor Genta. Buongiorno. Io sono tifoso del Napoli, le volevo chiedere, nel finale della partita tra Napoli e Inter, si è verificato questo caso del Napoli. Però le volevo chiedere quante partite ha fatto, diciamo, nell'Inter e quando ne ha fatte il Napoli. Scusi, non ho, mi sono perso un paio di parole. Quante partite ha disputato l'Inter e quante ne ha disputate il sì, Napoli? Certamente il Napoli alla Coppa. Appunto, senza contare le convocazioni nazionali, ecco. Sì, quelle ce l'ha anche l'Inter, però il Napoli ha le coppe, l'Inter non le ha, questo è certamente un vantaggio per l'Inter. Non credo però sia una questione di stanchezza, anche perché nel turno precedente, il giovedì, a Brugge il Napoli ha fatto un ampio e sacrosanto turnover, ma come è giusto che sia. D'altra parte si è guadagnato sul campo la possibilità di poter operare il turnover in quella partita, perché ha dominato il suo girone. Ciao Ciccio Graziani. Ciao a tutti, un abbraccione grande. Ti piace la torta di carote? Non mi piace la torta di carote, anche se qualche volta mangiarla non farebbe male. No, Mondonico prima mi ha detto che le carote fanno bene alla vista, qualcos'altro fa diventare cieco. Ma lasciamo stare, lasciamo stare. Però il clima che c'è intorno alla Roma è giustificabile, no? Alla luce è giustificabile alla luce di questi ultimi 20 giorni, dove il pareggio di Bologna, la sconfitta eclatante a Barcellona e soprattutto la sconfitta in casa con l'Atalanta, perché se avesse vinto in casa con l'Atalanta oggi ci sarebbe un clima molto più sereno e disteso, una classifica diversa. Però purtroppo non lo sappiamo in Italia, quando le cose non vanno bene il tifoso non ti è amico. No. Noi diciamo sempre che gli amici si vedono nel momento del bisogno, ma certo. Però sai, finché ti portano le carote non è un grande problema, mi è sembrato anche una contestazione simpatica. Credo che sia una contestazione simpatica. Lo striscione non è molto simpatico, non è molto ironico. Però vedi, la Roma tutto sommato, nonostante questo periodo negativo, brutto, è ancora padrona del suo destino, perché adesso se dovesse raddrizzare la barca nelle prossime partite ci può stare tutto, perché la Roma è una squadra un po' pazza sotto questo aspetto qui, si esalta e fa grandi prestazioni come può diventare merce di scambio con altre squadre, ma è ancora tutto alla portata di questa squadra e sono convinto che potrà ancora essere una stagione da protagonista. Sì, questo abbastanza in teoria, Ciccio, perché non ha l'aria di quella che sta benissimo, non ha l'aria di quella che ne ha anche la possibilità di reagire. Cioè, io per dirti, guardo Allegri ormai da 3 settimane in conferenza stampa e ha la faccia giusta. Come di quello che ha incassato la fiducia alla società, ma sto inventando io, certo. Però ha la faccia giusta e la grinta giusta. Guardo Garcia arrampicarsi sugli specchi e non mi sembra che abbia la stessa determinazione, facciamo così. No, ma su questo non c'è dubbio, ma tutto dipende sempre dalle situazioni del momento. È chiaro che io ho visto la conferenza stampa di Garcia prima della partita. Se fosse andato in campo lui, molto probabilmente con quello spirito, con quella grinta, con quella determinazione, forse sarebbe venuto fuori un risultato diverso, perché ha parlato addirittura saremo 11 guerrieri, facciamo, cioè nelle intenzioni l'allenatore è propositivo, però in questo momento la squadra purtroppo non risponde sotto quell'aspetto lì. Però è un fatto momentaneo. Se noi pensiamo che all'inizio di stagione qualcuno aveva addirittura messo in discussione Allegri con la possibilità di essere esonerato, sì. Quando le cose non vanno bene così, Carlo, no? c'è poco da fare. No, lo so, Ciccio, ma qual è il limite che porta? Io sono contrario di principio al cambio di allenatore, eccetera, certo. Eccetera. Però qual è il limite davanti al quale non puoi fare altrimenti? Quando una società, dei dirigenti si rendono conto che la squadra non lo segue più, cioè quello che lui dice. Diventa aria fritta, ecco. Quando c'è all'interno dello spogliatoio un distacco tra le idee, gli intendimenti, la volontà di un allenatore nei confronti di una squadra che in quel momento non ci crede più, allora a quel punto mi sembra che sia una cosa più logica da fare, inevitabile. Però mi sembra che anche dalle parole di De Rossi, che è uno dei leader della squadra, si sia espresso in termini altamente positivi verso l'allenatore, e quindi questo fa capire che nello spogliatoio c'è ancora tanta autostima. Sì, senti, Dzeko è diventato improvvisamente un problema. A me pare un gran giocatore. In questo momento sembra un broccaccio, ma a me pare un gran giocatore. Diventa un problema quando c'ha sugli esterni Jaco Falchi e i Turpi che non riescono a saltare l'uomo neanche una volta. E se a Dzeko non gli metti i palloni dagli esterni, lo limiti, perché lui è un giocatore che è bravissimo all'interno dell'area, molto forte nel gioco aereo, molto molto potente fisicamente, ma gli devono arrivare i palloni giusti. Ma ripeto, io ho visto la partita contro l'Atalanta, ho visto anche qualcun'altra, ma quelli in modo particolare, né Jaco Falco né Turca sono riusciti una volta ad andare sul fondo e mettere una palla in mezzo per questo ragazzo. Quindi a quel punto le difficoltà aumentano. Sicuro. Sei d'accordo con questa classifica? Primo Suarez, secondo Higuain, terzo Lewandowski tra i migliori centravanti del mondo oggi? No, no, non sono d'accordo. Per me in questo momento Higuain è superiore agli altri, perché Suarez è bravissimo, però ha un supporto di una squadra e dei compagni vicini che ti fanno giocare anche se c'hai un occhio bendato. ti mettono in condizione di buttare la palla dentro ogni domenica. Higuain è un giocatore che si sta creando da solo le premesse per essere uno dei più forti al mondo, perché le palle sporche le fa diventare pulite, esatto. Inventa gol straordinari e gioca un po' da solo, no? C'ha poca no, ma basta guardare il primo gol che ha fatto all'Inter, quella palla che ballava lì, aspetta che questa la prendo io, aspetta, dammi qua. Non c'è dubbio, ecco, lui ha il vantaggio di non avere, e lo svantaggio dico, di non avere come supporto una squadra come può avere per esempio Suarez o anche Lewandowski è un altro giocatore che a me piace tantissimo, però ha il supporto di una grande squadra dietro le spalle. Higuain questo grande supporto non ce l'ha, ha una squadra che sicuramente gioca anche per lui, ma io vedo che i gol, per esempio quegli ultimi due, se li ha creati da solo, sì. Praticamente ha fatto sportellate con tutti e ha buttato la palla nel posto giusto, dove un portiere bravissimo come Andanovic non ci può assolutamente mai arrivare. Certo, un'ultima cosa Ciccio, Fiorentina mi pare un filo stanca, almeno quella vista con il Sassuolo, magari in modo comprensibile perché a differenza del Napoli si giocava tanto in Europa League a Basilea. Su quel, non dico sul podio, però tra i primi oggi in Europa io ci metto anche Kalinic, giocatore che a me piace tantissimo. Sicuramente sì, ieri ho letto qualcosa di Alex Boksic su questo ragazzo e sono contento perché sta raccogliendo dei consensi che nessuno si aspettava. A Firenze si sono ritrovati tra le mani un attaccante straordinario e credo che neanche loro fossero così convinti che questo ragazzo nell'impatto col calcio italiano fosse così prolifico, soprattutto in questa prima parte di stagione. Quindi anche Kalinic è diventato un grandissimo valore aggiunto nella Fiorentina. Cosa regaleresti alla Fiorentina per farla diventare da titolo? Non ti dico i nomi, ti chiedo i ruoli, quali giocatori avrebbe bisogno la Fiorentina in questo momento per essere veramente da titolo? Se avessi una bacchetta magica mi piacerebbe far tornare un giocatore importante per Pito Rossi. Io quando lo vedo tante volte mi piange un po' il cuore, perché vedo le difficoltà che sta avendo nel ritornare il Pepito vero. Ecco, se la Fiorentina avesse avuto e potesse riavere quel giocatore straordinario che si è dimostrato qualche anno fa prima dell'infortunio, sono convinto che la Fiorentina potrebbe tranquillamente diventare da titolo. Bravo Ciccio, grazie, un abbraccio alla prossima. A tutti. Ciao Ciccio Graziani, ciao, grazie davvero. Stavamo parlando di grandissimi, parliamo di un grandissimo che non gioca a calcio ma a basket, non gioca qui ma in America. Marchess looking, gets it to Bryant. Bryant dribbling, has to put it up with the buzzer, banks it in! He banks in the three! And the Lakers win the game! Tell you what, you're not gonna win allowing J.J. Redick to defend Kobe Bryant one-on-one. Bryant fires a three, puts it in! Kobe Bryant from downtown, and the lead back to 16. Non voglio usare toni retorici, l'addio di Kobe Bryant è stato annunciato come in America si conviene qualche giorno fa. Abbiamo fatto sentire anche con la traduzione il suo bellissimo messaggio. Simone Sandri dagli Stati Uniti, però non l'avevamo ancora sentito. Ciao Simone. Buon pomeriggio Carlo. Dicevo, insomma, in America c'è questa usanza, annunci a inizio stagione o comunque all'alba della stagione il ritiro in modo da poter fare poi il giro d'onore, cosa che la notte scorsa a Kobe è capitata nella sua città, cioè Filadelfia. Sì, esatto, Kobe aveva praticamente quest'estate aveva detto che molto probabilmente sarebbe stato solo l'ultima stagione, ma avrebbe deciso un po' a campionato in corso, diciamo, come si sarebbe sentito. Già dalle prime partite era chiaro che questa sarebbe stata l'ultima stagione di Kobe Bryant, perché si vede che comunque, e le statistiche sulle aumentano in questo momento, si vede che comunque non è più il giocatore che era, e per uno come lui, col suo orgoglio e con la sua fame di basket, deve essere devastante giocare in questo modo. Sì. Detto questo, proprio, e non è un caso, prima del suo ritorno a Filadelfia ha deciso di mandare questa lettera splendida, questa poesia dedicata al suo amore del basket, nel quale annunciava il ritiro, e ieri a Filadelfia, davanti a un pubblico che probabilmente era al 75% tifoso di Kobe, sì, e per il resto critico nei confronti di Filadelfia, per come fanno le cose a Filadelfia, ha dato il suo addio alla città, alla sua Filadelfia, dove ha giocato in high school dopo il ritorno dall'Italia. Certo, ma può sembrare retorico, ma non lo è. 75% tifoso di Kobe, in realtà 75% tifosi di basket. Vai a salutare per l'ultimo giro di valzer un grandissimo campione, e poi quale maglietta indossa in fondo, soprattutto per gli americani, conta poco. Sì, questa è la cosa bella dello spirito, diciamo, di la cultura sportiva americana. Se pensiamo ai messaggi che ci sono stati negli ultimi giorni di ringraziamento a Kobe, a me per esempio sono piaciuti tantissimo quelli dei tifosi di Boston Celtics, o degli stessi Boston Celtics, rivali di sempre dei Lakers, che celebrano uno dei più grandi Lakers della storia in maniera anche calorosa. Sono cose che succedono quasi solo esclusivamente da queste parti, e anche il bello forse della cultura sportiva americana. Era successo per chi ha qualche anno in più anche con Larry Bird e con Magic Johnson, no? Quando hanno detto l'addio con cerimonie toccanti in casa dell'altro, e chi ti regala Magic Johnson, che regala Larry Bird il pezzetto del parquet del Forum di Los Angeles con l'autografo di tutti i grandi, e poi Bird che ricambia la visita quando si ritira Magic Johnson. Insomma, chi vuole può trovarlo retorico, io lo trovo semplicemente il senso dello sport. Però Simone, c'è qualcuno qui in Italia che, insomma, segue quella voce secondo cui Kobe potrebbe dire addio all'NBA, ma magari non al basket, e potrebbe venire una mezza intenzione di chiudere, di fare magari ancora una stagione qui? Se n'era parlato qualche anno fa, ai tempi della serrata, quindi dell'inizio ritardato del campionato NBA, si torna a parlare di Kobe Bryant magari a Milano. Secondo te è una fantasia? In questo momento è assolutamente una fantasia, così come lo era una fantasia durante il lockout qui. Il discorso di Kobe a Bologna era un discorso legato alla pressione che Kobe voleva mettere sui proprietari, ma non c'entrava niente con la realtà, non sarebbe stata una situazione assolutamente impossibile. In questo momento è assolutamente una fantasia, però la verità è un'altra, la verità è che i giocatori sono animali particolari, non è detto che un anno dopo che smette magari da un anno, Kobe magari può tornare in questa voglia di giocare, magari potrebbe pensare a un'esperienza di questo genere. Sicuramente in questo momento è totalmente una fantasia, l'ha detto lui stesso in conferenza stampa, che il suo addio sarà definitivo e sarà al basket NBA, non verrà in Europa o in Italia a giocare. Però non si sa mai, magari tra un anno, dopo che capisce che magari gli ritorna la voglia di giocare, non riesce a godersi la vita da pensionato, sì, sì, a stare a casa con la moglie e i figli, magari potrebbe succedere. Io sinceramente, se devo essere sincero, ci credo molto poco. Sì, non sarebbe un inedito comunque un ritorno, è successo a molti con esiti discutibili, a molti anche tra i grandissimi, ovviamente mi viene in mente Michael Jordan. Simone, un'ultima cosa invece, c'è chi, a proposito di Michael Jordan, di Chicago Bulls, dei record, di record ne ha fatto un altro, Golden State campione in carica, Steph Curry, che in questo momento è, credo, senza grandi discussioni, in questo momento, ripeto, il più forte giocatore del mondo. Probabilmente senza nessuna discussione, è quello che sta producendo il miglior basket. Che io su questo momento del giocatore più forte del mondo è il tipo di giocatore che è, sia LeBron James, ma è indubbio che in questo momento Steph Curry sta facendo cose al di fuori della realtà, più da giocatore di PlayStation che da giocatore NBA. Veramente quello che sta facendo in questo momento Curry e i Warriors sono veramente qualcosa di straordinario, tanto straordinario da far addirittura diventare reale una conversazione che chiunque segue la NBA pensa che non sia mai stata possibile, cioè che questa squadra possa essere addirittura simile o se non superare il record dei Bulls del 96 che raggiunsero 72 vittorie ed è la squadra che ha non solo che ha vinto di più, ma una delle squadre più grandi della storia NBA. Comunque curioso che non fossero granché pronosticati inizio stagione, perché mi sembra che la maggior parte dei pronostici andassero a Cleveland alla squadra di James. Ma tutta la vita, infatti questa il fatto, secondo me, il fatto incredibile di questo inizio di stagione è veramente la fame con cui sta giocando Golden State, che è assolutamente incredibile ed è anche strana per una squadra che ha vinto, che in teoria tutti immaginassero avere magari un po' la pancia piena, sta giocando un basket straordinario, ma con una fame pazzesca ed è assolutamente questo inizio di stagione assolutamente impronosticabile. Grazie Simone, alla prossima. Ciao Simone. Grazie Sandri da New York. Luigi da Torino invece, anzi dalla provincia di Torino. Buongiorno Luigi. Sì, presente. Eccoci, presente anch'io, dica. Grazie a lei. Volevo solo esprimere un pensiero su quanto è affascinante e imprevedibile il calcio in questo periodo con questo campionato e anche riguardo alla partita di lunedì sera. Se avesse pareggiato l'Inter, adesso staremmo a parlare dell'Inter invece che di questo fantasmagorico Napoli. Anche se resta vero che il Napoli ha sicuramente meritato la vittoria. Vale la pena, ecco, da parte di tutti quelli che lavorano nell'ambito del calcio, temperare i toni, perché un campionato bello come questo, rovinarlo per delle polemiche, sarebbe una cosa brutta. Ma sì, le polemiche poi fanno parte. Allora, seguirlo. Luigi, facciamo così: le polemiche fanno parte del gioco. Fino a che rimangono contenute entro i limiti della discussione, sono anche gradevoli o possono essere anche gradevoli. Non si tratta di rovinare o meno. Direi che in questo momento non ci sono elementi per dire che ci sia qualcosa di strano, assolutamente. Anzi, possiamo dire tutti insieme che fin qui gli arbitri sono stati bravi nel gestire questo primo terzo di campionato. Poi per il resto questo campionato ha la cosa più importante nello sport, cioè l'equilibrio, vero Simone da Milano? L'ingrediente fondamentale dello sport è l'equilibrio e vale per tutti gli sport. Beh sì, di sicuro. Rispetto a quello che dici, dico che ci sarà sempre da... Mi sentite? Sì. Ok, no, che ci sarà sempre da recriminare, cioè io gioco tutte le settimane e c'è sempre da recriminare, però rispetto alla partita di lunedì io volevo dire una cosa che a me è sembrata guardandola, che diciamo che le due squadre, vabbè io sono tifoso interista, le due squadre ci sono, come dire, compensate, nel senso che, ed è stata una bella partita anche per quello, perché io ritengo che la difesa del Napoli... Sì. Sia un po' per certi versi inferiore a quella dell'Inter. Sì. D'altra parte c'era l'attacco dell'Inter, certo, abbiamo detto. Soprattutto con Icardi, molto sterile. Molto sterile, infatti, quello è un problema, è anche un punto da migliorare per l'Inter. Poi abbiamo detto molte volte che si affrontava il miglior attacco, quello del Napoli, contro la miglior coppia difensiva del campionato, Miranda Muriglio, e ha vinto l'attacco del Napoli. Grazie Simone, devo chiudere. Grazie a Giorgio De Luca, Andrea Roccabella e Giovanni Melchiori, ci sentiamo domani alle 2. Ma a livello arrivederci a tutti, grazie. Ma che fretta! Ciao Roberto. Deve scappare.